5N. Ascolta e trasforma. Questo problema è difficile. Questi problemi sono difficili. Questo tema è interessante. Questi temi sono interessanti. Questo programma è utile. Questi programmi sono utili. Questo sistema è nuovo. Questi sistemi sono nuovi.